мне без тебя. Mentre scavavo nel tuo giardino, cercando fossili di paradisi a cielo aperto, tra i poster che non servono se non a coprire l'umidità. Se ricordi che il meteo ci cambiava le giornate, nonostante tutto, sentimentali di primavera ci hanno spazzato via come bocche di leone. Ma forse ricordi che il meteo ci cambiava le giornate, nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto, nonostante tutto. Ma ora ritorna l'adolescenza, amore, dove sei? Thank you.